Respiro. Ben ritrovati da Laura Bettini, nuova puntata di Respiro, e come promesso andiamo a parlare di Motor Show di Bologna, si è concluso recentemente. C'è molto da dire per quello che riguarda il tema dell'ambiente, però abbiamo voluto coinvolgere quest'oggi un esperto, Roberto Rasia, inviato di Radio 24 al Motor Show di Bologna, e con lui cercheremo di fare il punto su quello che riguarda il tema motori e ambiente. Roberto Rasia, questo è stato un tema centrale di questa edizione del Motor Show di Bologna. Assolutamente sì, buon pomeriggio, grazie per l'esperto, mi lusinga, ma non è vero. Beh, sei. Senti, sì, siamo andati con Radio 24, lo sanno gli amici che seguono i motori, perché poi sul web è ancora presente uno specialone Motor Show che ormai è finito, ma dà il via a tutta la stagione prossima dei motori. Hai detto bene, due le parole chiave di quest'anno: ambiente da una parte, consumi, prestazioni dall'altra. Cioè, la grande scommessa è questa: riuscire a diminuire i consumi in modo tale che si diminuiscano anche le emissioni nocive nell'aria che respiriamo, senza però intaccare le prestazioni, perché sebbene i 130 km orari in autostrada siano sempre quelli, la mania è quella di fare auto che vadano sempre di più. Sappiamo che molti ascoltatori sono contro questo sistema perché dicono: ma dove volete andare con 400 cavalli? È vero, però qui noi ci occupiamo di ambiente ed è giusto forse che tecnologicamente tutte le case facciano grandi sforzi per non buttare fuori sul mercato prodotti che vadano meno di quelli precedenti, perché capisci, è limitativo, ma ti dicono: consuma meno, quindi spendi meno, fai meglio all'ambiente e va uguale. Ecco, questo è un po' stato la filosofia principale di questo Motor Show. Devo dire che nei concessionari arriveranno tantissime auto cosiddette B-Fuel, cioè al motore termico che va a benzina si abbina spesso un sistema o a GPL, che va per la maggiore, o a metano, un po' meno presente sul nostro territorio ma anch'esso molto più economico, nonostante le impennate di prezzo del 30% ultimamente, e poi la grande scommessa dell'elettrico. Per l'idrogeno c'è da aspettare un po'. Sul sito internet di Radio 24, che tu hai appena ricordato, hai un approfondimento specifico su il GPL e il metano. Perché hai voluto concentrarti su questo tema? Perché sono la prima risposta, cioè se la seconda sarà l'elettrico e la terza probabilmente l'idrogeno, la prima rimangono GPL e metano. Intanto costano circa la metà di un litro di gasolio o di un litro di benzina, e questo, voglio dire, fare un pieno con 30 euro invece che con 60, scusate se è poco, ma non è male. Secondo, le aziende costruttrici hanno iniziato a montare i sistemi e gli impianti GPL di serie allo stesso prezzo dei benzina e gasolio. Tu capisci che questo vuol dire avere un'auto che esce dalla fabbrica garantita dal costruttore, che va sia a benzina come era prima, ma anche a GPL senza un aumento di prezzo. Questo cosa ha fatto? Ha fatto sì che il GPL abbia vissuto questa grandissima stagione nel 2008, con un mercato dell'auto che invece perde il 20% di media in un anno e ancora oltre, e ha dettato il trend per il futuro, che è sicuramente GPL e poi metano come prima risposta. Cioè 2009-2010 sarà questo il trend, per poi giocarsi l'elettrico. Per esempio Renault arriverà col 2011 con un'auto che ha promesso elettrica, la Smart elettrica è una realtà, la Mini elettrica è una realtà. Certo, l'approvvigionamento è il problema. Tu ti occuperai poi di elettrico, immagino, l'anno prossimo più volte. Insomma. Sicuramente dovremo parlarne, volenti o nolenti ne parleremo, ti coinvolgeremo anche allora. Adesso sentiamo anche alcune delle interviste che tu hai potuto realizzare al Motor Show di Bologna. Cominciamo dalla Bosch, perché la Bosch che cosa ci ha portato di nuovo? Azienda leader, lo sapete, nella sicurezza, insomma, inventori del grande SP che tante vite ha risparmiato, però in questo caso anche molto attenta all'ambiente. Tutto il loro stand era con un'erba e dei fusti, insomma, proprio improntata al verde e all'ambiente. Ma perché? Perché con Fiat hanno collaborato per implementare lo start and stop sulla Fiat 500, sarà poi implementato sugli altri modelli. È un sistema che permette di spegnere l'auto quando si è fermi al semaforo in attesa del semaforo verde. Ci facciamo spiegare dall'ingegner Alvio Sartucci, che è responsabile Gasoline System di Bosch Italia, il funzionamento di questo sistema, e poi farà anche un ragionamento sulla cultura dell'ambiente. Il sistema è basato su questo: ad ogni sosta la vettura arresta il motore, così si evitano consumi ed emissioni. L'esigenza fondamentale è quella che la vettura non si pianti mai e che appena il guidatore esprime il desiderio di avviarsi, la vettura risponda immediatamente. Per soddisfare questo requisito occorre un sensore intelligente che riconosce sempre la posizione del motore e non ha bisogno, secondo sistemi di start tradizionali, di due giri motore per riconoscere la fase del motore. Quindi un sensore posizione motore intelligente, un sensore che mi garantisce che quando la macchina elettrica vuole avviare il motore fornisca energia, quindi un sensore che riconosca lo stato di carica della batteria, e poi naturalmente un guidatore che abbia imparato le manovre corrette per abilitare la funzione start-stop, perché è chiaro che ci sono situazioni di panico in cui il guidatore non ha tempo per fare certe manovre ed è anche giusto che la vettura non si spenga. Quindi l'implementazione di un tale sistema necessita, uno, di un software adeguato nella centralina di gestione motore, e due, di una sensoristica, una periferia che aumenti l'intelligenza del sistema di gestione motore, tre, una macchina elettrica che permetta di riavviarsi tante volte. È chiaro che prima una macchina elettrica veniva adeguata a un certo numero di avviamenti che erano quelli giornalieri del normale utilizzatore. Oggi naturalmente bisogna pensare che ci sono in percorsi cittadini che, per esempio, almeno di ogni 16 secondi c'è uno stop e un riavviamento, e quindi è chiaro che occorre avere un sistema che risponda pienamente a questi prerequisiti. È ovvio che i consumi e le emissioni siano legate a doppio filo. Sentito anche il direttore di Quattro Ruote, lui ha l'impressione che la vera molla per l'acquisto di nuovi prodotti, di un prodotto rispetto ad un altro, sia quello in realtà dei consumi. Quindi la gente oggi, già in crisi, vuole spendere poco. Secondo voi, secondo il vostro osservatorio, che è anche molto più che nazionale, la cultura italiana per l'ambiente è in aumento? Mi rivolgo per esempio ai più giovani come target. Aumenterà, o siamo un paese in questo fanalino di coda e il rispetto per l'ambiente sarà sempre secondo a quello per i consumi? Ma io dovrei dire che le nuove generazioni sicuramente hanno una sensibilità molto maggiore. Le vecchie generazioni avevano altre priorità. Io mi ricordo che da piccolo la priorità principale era mangiare. Oggi c'è cura anche per l'ambiente, e quindi quelli che poi prima non venivano considerati per niente inquinanti, devo dire il CO2, che veniva considerato come un prodotto che non aveva nessuna influenza sulla vita delle persone, avendo poi ricollegato la quantità di CO2 alle variazioni climatiche, è chiaro che bisogna tener conto anche di questo. Le condizioni meteorologiche sicuramente dai miei tempi, da quando ero bambino ad oggi, sono cambiate. Noi vediamo temporali a più grosso impatto, eventi di venti estremamente più forti. Questo perché? Perché con l'effetto termico del riscaldamento i gradienti termici che fanno sì che le correnti d'aria, le piogge, il freddo mutino più velocemente, hanno un grosso impatto. Io credo che i giovani di questo ne sono consapevoli, e poi perché no? Alla fin fine, quando risparmi carburante, il tuo portafoglio magari ti permette di fare una telefonata all'amichetta in più. Infatti il segreto sarebbe quello, se lei è d'accordo, di legare ancora di più le due cose. Quindi è vero, consumo meno, spendo di meno, ma nel frattempo, contemporaneamente, senza costi aggiuntivi, faccio bene anche all'ambiente. Il fatto che voi lo abbiate implementato insieme a Fiat, lo start stop su 500, è probabile che secondo lei possa essere un simbolo per implementarlo su altri modelli? Ma sicuramente il trend per il futuro dovrà essere rispettato da tutti i produttori automobilistici in Europa, è quello di ridurre i consumi, perché naturalmente già la Commissione europea sta dettando i nuovi consumi, poi bisognerà vedere quali saranno i limiti precisi più o meno, però il trend è quello, e anche perché poi dopo tutti i paesi europei dovranno pur pensare a diminuire il loro impatto sui consumi petroliferi, e quindi questa è una naturale evoluzione della tecnica automobilistica da 30 anni a questa parte. Così abbiamo sentito Alvio Sartucci, responsabile Gasoline System di Bosch Italia. Il sospetto quando si arriva a una manifestazione come quella del Motor Show, ma in generale quando si parla di questi temi, è che la gente sia più interessata a risparmiare che all'ambiente. E in questo caso sentiamo dalla Volkswagen qual è l'atteggiamento di appunto Volkswagen, che già in tempi non sospetti, negli anni 70, aveva iniziato a pensare all'ambiente. Massimo Mazza, direttore di Volkswagen Italia, sempre al microfono di Roberto Rasia. Volkswagen ha iniziato molti anni fa, in tempi tra virgolette non sospetti, a fare viaggiare le proprie maggiolini a alcol, in Sud America segnatamente, per cui in tempi non sospetti Volkswagen pensava molto avanti. Siamo stati i primi in Italia ad esempio a imporre la marmitta catalitica su tutta la nostra gamma, ancorché quando la gente non ne voleva neanche sapere, perché la benzina verde costava di più di quell'altra, per cui non la volevano proprio la marmitta catalitica. Noi l'abbiamo imposto e abbiamo messo di serie la marmitta catalitica su tutta la nostra gamma, per cui questi sono segnali importanti. La Volkswagen, come tutte le altre case automobilistiche, nessuna esclusa secondo me, ha sicuramente una quantità incredibile di progetti pronti, macchine elettriche, macchine a idrogeno, macchine che possono andare con qualsiasi tipo di carburante, forse anche a molla, non lo so, ma c'è un problema di base, il problema è trovare immediatamente delle soluzioni. Queste soluzioni per noi ad esempio sono oggi tutta la gamma Blue Motion. Gamma Blue Motion è una normalissima automobile che ha una aerodinamica più efficace, dei pesi ottimizzati, pneumatici leggermente più stretti e più gonfi e una elettronica modificata. Ergo, di conseguenza, consuma meno. Quindi questa secondo me è una risposta immediata, senza grandi alchimie, senza grandi cose. Bisogna fare qualcosa subito e questa è una risposta. Con un normale motore a scoppio si può comunque consumare molto meno e inquinare molto meno. Non dimentichiamo poi ovviamente anche noi abbiamo una gamma di impianti a gas su tutti i nostri modelli. Abbiamo appena lanciato la Passat a metano prodotta direttamente in fabbrica che segue, abbiamo lanciato 2 anni fa, la Touran a metano che tra l'altro vale il 30-40% delle nostre vendite di Touran. La Golf 6 che arriverà con l'impianto a gas montato direttamente in fabbrica verso febbraio e tante altre iniziative avremo nel corso dei prossimi mesi. Non ultimo l'adozione dei motori Common Rail su tutta la nostra gamma, a breve avremo tutta la nostra gamma con motori Common Rail che effettivamente consumano meno e inquinano meno. Ringraziamo Roberto Rasia per queste interviste. Trovate tutto quello che abbiamo sentito adesso, ma anche tutto quello che Roberto ha potuto verificare sul campo al Motor Show di Bologna sul nostro sito internet, nelle trasmissioni Respiro e Quattro Ruote Dintorni, che va in onda, lo ricordiamo Roberto? Ogni sabato, mi raccomando, alle ore 21 e poi sul web radio24.it. Grazie Laura. Grazie a voi per l'ascolto e a risentirci la prossima settimana.